известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. That's going to mean a set of sacrifices from all parties involved. Management, labor, shareholders, creditors, suppliers, dealers. Questo è Barack Obama che spiega come fa lui, come fanno i membri della sua squadra a produrre interventi come quello clamoroso che sta scuotendo le borse, il mondo della finanza, e non solo in queste ultime ore. Si tagliano i rami secchi, si tagliano in basso dove sono magari più piccoli e numerosi, ma si tagliano anche in alto dove fanno molto rumore, come nel caso della fragorosa caduta di Rick Wagoner, presidente e amministratore delegato della General Motors, dimessosi su invito, insomma una forma particolare di dire le cose, su invito esplicito della Casa Bianca. Per ora ci sono solo delle informazioni, anche se assolutamente attendibili, perché lo scatto dell'ora legale ci tiene ancora una cinquantina di minuti, anche meno, dalla comunicazione di Barack Obama, e dovrebbe dire anche molte altre cose. Dovrebbe parlare del suo salvataggio dell'industria automobilistica statunitense, e GM e General Motors e Chrysler in prima linea. L'intervento naturalmente è atteso, tutte le televisioni sono sintonizzate, se saremo ancora in onda vi diremo anche qualcosa al riguardo. Intanto un dirigente sotto copertura, per quanto sia l'impressione pilotata, della Casa Bianca, ha detto: l'amministrazione presidenziale ha esplicitamente chiesto a Wagoner di lasciare il suo posto, lui ha accettato. Gli è stato chiesto di dimettersi nel quadro dell'accordo di ristrutturazione di GM con il governo Obama, e lui si è assecondato questa richiesta. Una portavoce di General Motors, che si chiama Kathy McBride, ha rifiutato di confermare o smentire la notizia riportata anche dal Wall Street Journal. I commenti sono naturalmente tutti già pronti, ma usciranno a seguito della comunicazione e della forma della comunicazione ufficiale scelta dalla amministrazione e da Obama in prima persona. E che settimanuccia, speriamo si siano riposati bene, in particolare il Presidente degli Stati Uniti in questo weekend, perché la settimanuccia, come dicevamo, è di quelle da far tremare le vene. Prima di partire, prima di montare su Air Force One, c'è questa questione delle automobili americane da instradare nel modo migliore possibile, con tutti il possibile effetto domino che da qui sortirà. E poi comincia il viaggio in Europa, e non solo in Europa, di Barack Obama, una missione che comprime una quantità eccezionale di occasioni, incontri, forse anche scontri, presentazioni, primi contatti. Adesso qualcosa oggi cominceremo a dire, e in questi giorni cercheremo di dire di più, anche con, soprattutto con il contributo dei tanti inviati o comunque amici della rete di informazione di Jefferson. Nel frattempo negli Stati Uniti, nell'ambiente che circonda la Casa Bianca, massima, elevatissimo stato di allerta, con personaggi che vedono tra l'altro la qualità delle proprie azioni personali salire e scendere in modo straordinario. Basti come testimonianza il fatto che John McCain, il candidato repubblicano sconfitto da Barack Obama, è andato in televisione ed è stato subito stuzzicato, intervistato da un giornalista, riguardo la performance di Tim Geithner, ovvero il più discusso dei membri dello staff di Barack Obama, e non si è tolto il suo abituale vizio, sfizio di sorprendere e provocare. I have some confidence in him. I think he's very smart. I hope that this new plan, which by the way I thought was, e ha detto well che secondo lui è una persona molto in gamba e che si sta comportando con grande correttezza e acume nella sua politica di gestione, e che lui pensa che grazie ai piani elaborati da Geithner, naturalmente non solo da Geithner, soprattutto da Summers, ma comunque l'economia americana stia marciando nella direzione giusta. Grande il dibattito. dibattito appunto attorno a Barack Obama, se è vero che Newsweek, un settimanale, uno dei due grandissimi settimanali americani, tra l'altro in questo periodo in straordinario stato di grazia dal punto di vista giornalistico, se mi passate questa espressione, ha pubblicato una copertina molto molto sorprendente, sicuramente impensabile solo 2 o 3 mesi fa. It's not that things are getting better, it's that things are getting worse more slowly, maybe. So there's a hint that this thing might actually bottom out. Ecco qua, Paul Krugman, Nobel dell'economia e grande comunicatore, qualcuno dice un po' troppo grande, nel senso che è anche un uomo che si piace molto e a cui piace chiaramente, evidentemente molto la ribalta mediatica. Paul Krugman, anzi mezzo Paul Krugman, mezza faccia di Paul Krugman, un primissimo piano di un occhio, il naso, la bocca e la ormai proverbiale barba ci fissano dalla copertina bianca di Newsweek con la scritta Obama is wrong, Obama sbaglia, e Paul Krugman nel sottotitolo ci spiega perché. L'articolo è molto denso, interessante, lo stiamo soppesando e ci torneremo nei prossimi giorni, ma è un attacco peraltro preavvisato, no? già anticipato da diversi articoli sul New York Times, dove Krugman scrive abitualmente contro le politiche economiche di Obama, che secondo lui puntano semplicemente a tenere in vita quello che chiama un dead man walking, un cadavere. In pratica, secondo lui, la strada seguita fin qui non è quella giusta, perché non è efficace, è solo un rinvio dei principali problemi. Sulle proposte alternative di Krugman ci saranno delle cose su cui ragionare e dire, ma questo invece serve a noi a dire che ormai sono caduti, come dire, i filtri, le griglie di protezione dell'amministrazione. Tanto è efficace e intensa la sua azione, i risultati però sono tutti da vedere, però si muovono, questo gli va riconosciuto, tanto chi può e deve criticare lo fa in modo ormai aperto, come quando un periodo di rodaggio è considerato concluso. E quindi anche la grande stampa americana, nonostante continui ad avere un atteggiamento fondamentalmente cavalleresco nei confronti di Barack Obama, però ormai non va più tanto per il sottile, ma si parte domani alle 8 del mattino, parte da Washington Barack Obama, quindi tra poche ore. L'arrivo a Londra è previsto alle 19.45, troverà ad accoglierlo Gordon Brown, e il 1 aprile, a margine delle riunioni del G20, Obama terrà incontri bilaterali con il presidente russo Medvedev, con il presidente cinese Hu Jintao, prima presa di contatto tra Obama e Hu Jintao, poi andrà anche dalla regina, dal premier dell'opposizione, dal capo dell'opposizione inglese Cameron. Il 2 aprile continua il G20, altri incontri con Corea del Sud, il re saudita Abdullah, con il primo ministro indiano. Il 3 aprile Obama si sposta in Francia, a Strasburgo, partecipa alle celebrazioni per i 60 anni della NATO, incontra Sarkozy, incontra Angela Merkel, terrà un botta e risposta con gli studenti europei sui temi di politica internazionale. Ci piacerebbe avere degli estratti di questo botta e risposta. Il 4 aprile, con riunione del Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della NATO, tema all'ordine del giorno nuova strategia americana sull'Afghanistan. Si sposta sempre il 4 a Praga, terrà dalla Repubblica Ceca un discorso sulla proliferazione nucleare, indirizzato con interlocutore preferenziale Iran e Corea del Nord. E poi il 5 aprile c'è un vertice Stati Uniti-Unione Europea, incontrerà il ministro ceco Topolánek, poi Václav Klaus, Václav Havel, Barroso, Zapatero, poi la delegazione americana arriverà in Turchia ad Ankara, ultima tappa del viaggio è Ankara e la partenza verso gli Stati Uniti 7 aprile, ma non è escluso una ultima tappa del tour di Obama, una improvvisata, indovinate un po' dove, ma naturalmente a Baghdad. piaciuta questa canzone di George Harrison perché c'ha dentro un'energia, no? Questo sembra veramente il reattore, ci fa pensare al reattore dell'Air Force One che porterà a spasso per Europa e non solo Barack Obama con il suo seguituccio, caro Emiliano. 500 persone. 500 personcine, alcuni elicotteri, si porta pure l'acqua, ci fanno sapere. Non fosse mai che gli venisse sete, presidente, hai sete? A bordo dell'Air Force One le agenzie danno informazioni stranissime, tipo che gli agenti segreti sono 200, per cui ci chiediamo chi sono gli altri 300, almeno 200 degli altri 300, e che gli agenti segreti, scusate ascoltatori, prendete penna, accostate le macchine, penna e blocchetto, perché c'è scritto sull'agente che gli sull'agenzia che gli agenti segreti si distinguono da microfoni attaccati ai polsini e occhiali da sole Ray-Ban. Ma stavo e quindi scherzando. Che segreti sono? Stavo andando in giro. Express yourself. E la macchina, io vorrei dire anche questo, la macchina, forse una macchina blindata a $300,000, la Batmobile, si chiama The Beast, la bestia, sai chi l'ha fabbricata? No. La General Motors. io, caro Barack, sarà difettosa, ne dico una, io piglierei una Fiat in giro per l'Europa. Voi vedete che Wagoner lì gli ha girato lo spinteroge. Comunque staremo a vedere anche la parte, come dire, più così gossip, glamour e irrilevante in realtà del viaggio di Obama. Adesso siamo in area Express Yourself, perché nel weekend è uscita una notizia, sempre per l'appunto a proposito di gossip, del peggiore, di quello che in America si chiama white trash, no? Quello che esce sui settimanalacci, quelli che si comprano quando in fila al supermercato. È uscita una notizia che però è straconfermata e sarebbe, riguarderebbe un signore, non molto insomma di buon cuore, che sta offrendo ai giornali, alle televisioni soprattutto americane, con un prezzo che partito da 2 milioni e mezzo adesso è sceso, siamo intorno ai $250,000, se mai vi interessasse, siamo già un decimo quindi del valore, un filmino di tot minuti in cui si vedrebbe Ashley Biden, ovvero la figlia di Joe Biden, vicepresidente degli Stati Uniti America, alle prese con la cocaina in un party di amici suoi. E una notizia che fa la coppia con quella di Michael Phelps, ricorderete, il 7 volte, se non sbaglio, medaglia d'oro, no? 8 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi, e qualche mese dopo beccato a una festa di studenti in Carolina mentre si fumava un enorme bong, un enorme coso di hashish. E fece mea culpa pubblico. Michael Phelps tutto sommato lo può pure fare, la figlia di un vicepresidente l'affare si ingrossa e la questione diventa un po' più complicata, però c'è anche un però. Diciamo noi a voi, questa è l'immondizia mediatica del contemporaneo, che reazioni vi provoca? Insomma, siamo tutti paparazzi, tanto peggio per il famoso di turno che paga, no? Il prezzo, la commerciabilità della sua posizione, oppure vi fa rabbia questa mania di spiare, ricattare, che ci rende tutti potenziali delatori? Allora, c'è Olivo che ha una soluzione in tasca, sulla carta facile facile, poi direi di impossibile realizzazione, perché dice basta non alimentare il sistema, ovvero non leggere / non acquistare certe riviste, ma certe riviste, a parte che le leggo anch'io, insomma, andranno avanti in eterno, credo. Poi c'è lo sfogo gossip rabbioso, come la farmacia, esatto, non si può farne a meno, insomma. Poi c'è lo sfogo invece rabbioso di Mario, che addirittura dice mi fa schifo pensare che ci sia gente interessata all'acquisto di queste riviste per vedere chi si è fatto una canna o chi si è fatto chi. Perché non promuoviamo riviste che ci raccontino di personaggi che dedicano il loro tempo ad altri, come tutti i volontari che assistono persone nelle condizioni di Eluana? Anche questo mi sembra un mondo pronti, insomma, noi siamo pronti. Più disincantato Lorenzo, che dice non per nulla i reality show sono le trasmissioni più seguite nonostante si dica che siano format in crisi. E poi dice non capisco perché ci debba gridare allo scandalo sempre e comunque quando vengono fotografate star o starlette che si fanno di qualche droga. Duccio, per quel che conta il vicepresidente, dice tutto si risolverà con la ragazzetta che farà pubblica ammenda. Io non la vedo così. È il così padre semplice. Che la riempie di botte o no? Luca, una cosa che mi ha scioccato leggendo l'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera è stato vedere come al di là del muro fossero tutti potenziali delatori e spie del regime. Dice da queste parti stiamo diventando uguali. Marco, a quale decadimento è arrivata la nostra società? Da una parte è diventata la norma, un comune costume costume assumere droghe pesanti come la coca, dall'altro è diventato un mestiere andare a caccia della vita privata trasgressiva dei VIP. Cito ancora almeno Paolo, premettendo l'obbligatorietà da parte dei VIP in generale a dare l'esempio di una vita sobria, a voglia, concordo con chi afferma l'esigenza di una privacy individuale, infatti poi la parola chiave è quella lì, privacy. Massimo, ecco appunto delle debolezze si parla, della superficialità con cui si sputtana, si può dire, ma non credo una persona, me l'ho detto, o si partecipa a un party, l'importante non è essere ma apparire. Allora c'è Cristiano che in vena di consigli dice: secondo me è il caso che si scelgono meglio gli amici, e se proprio devi farti una striscia fatela in bagno, che tristezza però. Interessante il risvolto invece sottolineato da Antonio, che dice che c'è un rovescio della medaglia: se già nel 2001 i telefonini fossero stati in grado di filmare, difficilmente a Bolzaneto, quindi torniamo nell'area fosca, cupa del G8, certo, di Genova, certo, ci sarebbe stata la macelleria che purtroppo c'è stata. Telefonini privacy, è un mondo che cambia. Che cambia a velocità supersonica. Poi c'è Andrea che dice: è finita l'epoca in cui i potenti, famiglia inclusa, facevano quello che volevano, tanto non lo sapeva nessuno. Come detto, i tempi cambiano e quindi anche le loro nefandezze presunte o vere che siano, insomma, diventano sotto gli occhi di tutti molto facilmente. E concludo con Alessio che ci propone una siffatta riflessione: è fatta di immondizia la linea sottile che divide il giornalista grassroots, quello che va a indagare nelle storie vere della gente, dal paparazzo grassroots, quello che si fa gli affari degli altri, in sostanza. Sulle televisioni americane delle ultimissime, insomma, piuttosto allarmanti, satelliti avrebbero fotografato immagini del famigerato missile della Corea del Nord sulla rampa di lancio, e naturalmente il cartello successivo dice puntualmente che gli US destroyers, insomma, i missili o arnesi volanti addetti diretti alla distruzione dello stesso, americani sarebbero a loro volta allertati. Quindi le migliori premesse, no, per partire, per andarsi a fare un giro in Europa per il presidente Obama. Abbiamo in diretta Vittorio Sabatini, il vice direttore della Stampa, che tra l'altro ha anche scritto un libro che è più aggiornato e interessante oggi non potrebbe essere, che è quello che per Donzelli è uscito con il titolo L'ultima copia del New York Times, il futuro dei giornali di carta, che Vittorio nel frattempo è ulteriormente peggiorato, tanto per aprire una parentesi subito. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo che tutte le previsioni, ahimè, che erano contenute in quel libro si stanno avverando con una velocità però doppia rispetto al previsto. Doppia, certo, diciamo, certo, che la crisi economica globale ha accelerato un processo che era già in corso in modo veramente drammatico. Dunque, un avvicinamento, una premessa a questo G20, che poi, come appunto segnalavamo, è costellato anche di segnali preoccupanti, ma vorrei sapere se a tuo parere, io poi prima ho fatto una specie di elenco impressionante degli impegni a cui solo di parte americana, solo per quello che riguarda l'America, è sottoposto Obama, che parte un po' come la stella di questo appuntamento, se non altro per l'avvento sul palcoscenico internazionale. Ma il momento caldo, ecco, se dovessimo identificarlo, potrebbe essere proprio questo incontro fra Obama e Eugene Tao, e questo G20 potrebbe passare alla storia come l'evento, no, un po' del passaggio di consegne, no? Passaggi consegne dal punto di vista della vera leadership, è qualcosa di immaginabile. Ma non c'è dubbio, Obama vedrà in questi giorni, in 8 giorni di viaggio in Europa, più di 40 leader di paesi stranieri, ma non c'è dubbio che l'incontro più importante per lui sarà quello con il presidente cinese, perché nei giorni scorsi ci sono stati numerose occasioni di attrito fra gli Stati Uniti e la Cina. Ricordiamo che la Cina ha chiesto qualche giorno fa che venga adottata una valuta internazionale diversa dal dollaro perché diventi un nuovo riferimento per il commercio mondiale, ponendo le basi proprio per il superamento definitivo degli accordi di Bretton Woods che hanno governato l'economia per decenni dalla, certo, fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, il fatto che la Cina abbia chiesto di abbandonare il dollaro non è tanto, secondo me, una proposta concreta che possa trovare realizzazione nel giro di pochi mesi o forse nemmeno di pochi anni, però è un chiaro avvertimento all'amministrazione americana. In sostanza la Cina dice: ecco che cosa potrà accadere al dollaro se voi non ci ascoltate. Certo. La Cina ha posto nelle scorse settimane con forza il problema del ruolo che deve avere a livello internazionale, e il G20 sarà sicuramente il primo banco di prova, perché proprio nel G20 si vedrà se la Cina riuscirà a ritagliarsi questo nuovo ruolo. E come hai detto tu, un passaggio di consegne, perché è ormai evidente a tutti che il bilanciamento del potere politico ed economico globale si sta trasferendo dall'Occidente all'Oriente. Sarà poi perché insomma si avvicina Pasqua, ma Obama sembra arrivare in Europa col ramoscello d'ulivo. Nella intervista che ha fatto al Financial Times nelle ultime ore è molto accomodante, dice: in tutti i paesi esiste una comprensibile tensione tra i passi necessari per far ripartire l'economia e il fatto che queste misure siano molto costose, ma ci sarà un accordo al G20 che tutti i paesi faranno quel che è necessario per promuovere commercio e crescita economica. Ma in realtà da questa parte dell'oceano, se volessimo cercare qualche punto comune, qualche punto forte, come lo aspettano Obama? Con quale biglietto da visita, secondo te? Secondo me con un atteggiamento molto diverso rispetto a quando Obama venne qui qualche mese fa, nel pieno della sua campagna elettorale, venne accolto con grandi simpatie, grandi manifestazioni di folla in ogni paese. Il clima è molto cambiato, un po' perché diciamo l'Obama che abbiamo visto alla presidenza è un po' diverso dall'Obama che ci aveva fatto sognare durante la campagna elettorale. Probabilmente lo amavamo tutti molto perché eravamo tutti molto stanchi di Bush. Certo. E quindi ci ha destato grandi speranze questo giovane intelligente che si presentava con degli slogan molto efficaci. Ma non si governa con gli slogan, e quando poi Obama si è trovato alla Casa Bianca a dover prendere delle decisioni nel momento più difficile della storia degli Stati Uniti, probabilmente queste decisioni non hanno convinto tutti e, devo dire, finora non hanno dimostrato di essere efficaci. Se guardiamo anche i dati della borsa, di come sta andando, certo, Wall Street in questo momento, è veramente drammatico. Allora io credo che verrà accolto in Europa con un atteggiamento molto diverso. Prima dicevamo dello slittamento del potere politico ed economico da ovest verso est, e credo che il suo viaggio in Europa rifletterà un po' questo. Una volta tutti i paesi europei guardavano agli Stati Uniti come l'esempio da imitare, il presidente americano era la persona da ascoltare. In questo caso credo che Obama verrà di più ad ascoltare i leader europei, a cercare di trovare un compromesso. Probabilmente in questi mesi avrà capito che appunto una delle prime regole della diplomazia è quella di non chiedere mai cose che sai che ti verranno negate. E quindi io temo, spero di essere smentito nei prossimi giorni, ma temo che i risultati del G20 saranno molto deludenti, proprio perché si farà in modo di non evidenziare contrasti che in realtà ci sono. Oh, ultima questione in questo avvicinamento al grande appuntamento. Abbiamo letto prima il calendario di Barack Obama, si nota inevitabilmente l'assenza dell'Italia dai passaggi, dai primi contatti e dalle visite vere e proprie, e Berlusconi è tornato comunque oggi a parlare di Obama, è tornato a mandare ormai questi abituali segnali assolutamente positivi, come si chiamano, nei confronti di Washington. Si è detto ottimista sulla possibilità che l'amministrazione del presidente Obama avvii un dialogo serio con Mosca. Ecco, la domanda che ti voglio fare è proprio questo: uscendo dalla porta e rientrando dalla finestra, visto che in prima istanza, in prima battuta, non sembriamo per ora essere, come dire, interlocutori privilegiati, forse questo ruolo di mediatori con Mosca è qualcosa che l'Italia potrebbe ritagliarsi per, insomma, per sedersi, no, a un buon tavolo? Non lo so, credo che questo sia l'auspicio di Berlusconi per i suoi ottimi rapporti con Putin, ma credo che l'amministrazione Obama non abbia bisogno di un mediatore in questo momento per trattare gli affari internazionali. Sicuramente Obama può telefonare direttamente a Putin senza bisogno che qualcuno lo faccia per lui. L'Italia in questo momento è un po' defilata, forse ha contato anche un po' la battuta infelice di Berlusconi a proposito della bronzatura, del vermo doppia, perché poi è stato tornato. Certo. Cioè, questi sono temi sui quali negli Stati Uniti non si scherza, insomma, non sono cose che là fanno ridere, forse qui fanno ridere, ma là non fanno ridere. E in ogni caso probabilmente anche il ruolo dell'Italia in questo momento, anche per quanto riguarda il Medio Oriente, le guerre internazionali, è un po' defilato, anche se l'Italia avrà un ruolo importante in Afghanistan. Domani c'è la conferenza all'Aia dove verranno probabilmente chieste nuove truppe, e l'Italia farà, come ha fatto in questi anni, la sua parte. Ma insomma, certo è che un po' questo atteggiamento un po' defilato dell'amministrazione americana nei confronti dell'Italia è un fatto ormai tangibile al quale in qualche modo bisognerà porre rimedio. Esistono le diplomazie proprio per questo e si metteranno al lavoro per ricucire, insomma. Va bene, molte grazie di questo intervento, questo approfondimento a Vittorio Sabatini, vice direttore della Stampa. Vi ricordo ancora il suo volume sulla crisi della carta, stampa cartacea in America e ormai possiamo dire anche nel mondo. Si chiama L'ultima copia del New York Times, il futuro dei giornali di carta. Vi ricordo anche che fra un quarto d'ora ormai ci sono già le prime inquadrature dell'esterno della Casa Bianca quando si avvicinano eccolo qua, Remarks on Future of G&M and Chrysler, le osservazioni del presidente sul futuro di General Motors e Chrysler. Sono previsti fra esattamente 16 minuti, poi poche ore più tardi alle 8 del mattino ora di Washington di domani, quindi alle 2 del pomeriggio ora italiana di domani, Obama parte per questo fatale appuntamento del G20. On the Firefly platform on sunny Good Street, a violent hash smoker shook a chocolate machine, involved in an eating scene, smashing into neon streets in their stoneness, smearing their eyes on the crazy colored goddess, listening to sounds of Mingus, mellow, fantastic. My, my, they sigh. My, my, they sigh. In dollhouse rooms with colored lights swinging, strange music boxes sadly tinkling, drinking the sun shining all around you. My, my, this side. side, my this side. The magician, he sparkles in satin and velvet. You gaze at his splendor with eyes you've not used yet. I tell you his name is love, love, love. My, this side. My, this side. Vi abbiamo già parlato un paio di volte di un evento che ormai è imminente perché avrà luogo domani, martedì 31 marzo alle 17.30 nella sede del gruppo 24 ore a Milano, sala Collina via Monterosa, un evento dibattito intitolato Opportunità o rischio, chi scommette ora sulla Cina, una occasione per discutere e confrontarsi fra un cospicuo numero di operatori in occasione della pubblicazione del libro di Rita Fatiguso, giornalista del Sole 24 ore, intitolato Oltre la muraglia, reportage sulle aziende italiane che sfidano la Cina, una sfida estremamente contemporanea e anche elettrizzante, non naturalmente non scevra da pericoli, come spesso e volentieri ci raccontano Saro Capozzi e molte altre voci dei nostri italiani in Cina. Ma abbiamo in collegamento dagli studi di Milano Rita Fatiguso, che saluto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio anche a voi. Eccoci qua. E per capire insomma come nasce, questo è un libro frutto di un reportage, di, come si dice una volta, di una ricerca sul campo, gambe in spalla, insomma, in un territorio straordinario come per dimensioni come la Cina, dove si vanno a cercare, come si vanno a cercare le imprese italiane in Cina, trattandosi poi, come so, di spesso e volentieri di imprese di piccole dimensioni, vero? Beh sì, innanzitutto si inizia a infilare gli stivaloni di gomma, perché ecco, la Cina è un paese assolutamente difficile anche per chi appena si esce da quello che è la strada principale scintillante. Non a caso questo viaggio che è durato un mese è stato da me così progettato, comunque vissuto con un adeguato anticipo rispetto alle Olimpiadi, no? Che erano l'evento, certo. Quindi diciamo che sono stata anche in posti in cui non sapevano nemmeno cosa fossero le Olimpiadi e che ci fossero, per cui insomma significa anche andare a ficcare abbastanza il naso in cose piuttosto scomode, ecco, anche tanto inquinamento, tanta difficoltà di rapporti, di creare effettivamente una situazione di armonia anche a livello all'interno dell'azienda, anche ricostruire la storia di ogni singola esperienza, che è unica e rara, perché veramente sulla Cina quello che si può dire è che ognuno ha la sua propria, cioè non esistono lezioni che possano essere, cioè di pratiche di come è meglio internazionalizzarsi. Certo, sono andata a scoprire casi di internazionalizzazione che voi, come sapete, certo, bene, è ben diverso dalla mera delocalizzazione, anche se ho avuto anche la fortuna di incrociare situazioni, se vogliamo, scomode, perché mi ero interessata prima di partire di questa storia di questi termosifoni all'amianto, no? Che erano stati sequestrati a Expo Comfort, certo, la fiera, certo, a Milano, e che sono andata a vedere proprio le aziende, ovviamente sottomettite spoglie, dove venivano prodotti questi termosifoni con le guarnizioni pericolose. E devo dire che lì in effetti il terreno è diventato piuttosto, diciamo, molle da percorrere. Senti un po', ma se dovessimo trovare un terreno comune, un comune denominatore per gli italiani, soprattutto gli italiani naturalmente dei marchi meno conosciuti, quelli che veramente affrontano un po' l'opportunità o il rischio di cui parla l'evento di domani in Cina, c'è una caratteristica che ti ha colpito alla base di queste imprese, no? di questi tentativi? Ah, devo dire che, a parte il fatto che la natura dell'attività condiziona molto anche l'approccio specifico e anche ovviamente la mentalità del singolo singolo imprenditore. E devo dire che la cosa che risulta veramente vincente è l'umiltà. L'umiltà di chi va lì e non vuol dare lezioni ai cinesi, non vuole un atteggiamento, come dire, da colonizzatore, ma vuole misurarsi anche con una cultura scomoda, difficile. La Cina puzza, mi dispiace dirlo, ma è così, cioè se vogliamo usare un atteggiamento molto, come dire, una Cina è anche come dire, entrare anche in contatto con una realtà profondamente diversa dalla nostra, anche dalle regole di stare a tavola, certo, di cucinare, di mangiare, insomma la vostra trasmissione si sarà più volte incrociata con questo tipo di cose. Ecco, quelli che in realtà hanno più saputo, come dire, anche mettere da parte certi preconcetti per avvicinarsi in maniera sincera e anche con gli occhi aperti alla singola realtà, per quanto dura e scomoda, sono quelli che sono riusciti più a creare le premesse adesso per poter essere vincenti. Va bene, io ricordo che a questo evento partecipano tanti ospiti, appunto Saro Capozzoli, poi c'è Francesco De Moiana, il Managing Director di Aretusa, poi Marco Palmieri di Piquadro, Aldo Fumagalli, Matteo Cordario Montezemolo di Fondo Charm, Adolfo Urso, Beniamino Quinteri, Mario Boselli, Cesare Romiti, per le varie rappresentanze esistenziali. La domanda, cara Rita, è da $1,000,000, insomma, opportunità o rischio, conviene o non conviene? Il nostro Saro, vedrai, sarà portatore, come probabilmente ben sai, anche di molti avvertimenti, no? Sì, onestamente devo dire che Saro conoscevo così, come voi, insomma, come tutti, però non avevo avuto la possibilità di scambiare con lui. Tra l'altro non sono riuscita a incrociarlo in questo mese per motivi puramente, insomma, così, non perché lui è sempre anche in giro, la Cina è grande appunto, però devo dire che in effetti credo che sia abbastanza in sintonia alla fine, proprio perché ci ho parlato dopo, sono tornata con quello che io ho raccontato, ma visto e quindi riportato, perché prima si parlava della scomparsa della carta stampata, e se permettete veramente colgo l'occasione per dire che bisogna andare nei posti a vedere le cose, poi come la racconti carta stampata, ecco quello che si rischia un po' di perdere e di andare un po' a ficcare il naso, che poi è uno dei principi del giornalismo, capisco che è difficile, sono vecchio giornalismo, certo, ma purtroppo alzare il sedere e andare così, e in effetti poi sicuramente dà più soddisfazione, ma anche è anche un'occasione per raccontare delle cose più, poi insomma mi ha anche aiutato, ci sono stati anche dei video che sono stati poi pubblicati sul nostro web, sito web, e quindi diciamo che soprattutto la storia dei termosifoni, devo dire che le aziende che producono a mani nude queste cose qui con questi lavoratori che vengono dalle campagne per veramente per niente, senza nessun tipo di cautela, di tutela, sicurezza sul lavoro e quant'altro, insomma è un paese veramente pieno di sorprese da questo punto di vista. Bene, queste storie verranno raccontate, approfondite, commentate e arricchite, vi ricordo ancora, da Rita Faticuso, il suo libro si chiama Oltre la muraglia, edito dal Sole 24 Ore, e da tutti gli ospiti, con saluto di Ferruccio Bortoli e moderatore, il direttore delle 24, Gianfranco Fabbi, domani alle 5:30 nella sede del gruppo 24 Ore. Grazie alla nostra ospite Rita Faticuso, che ha coperto questa seconda parte del programma di oggi lunedì, Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è come sempre Emiliano Enrico, in regia oggi abbiamo Valerio e Valeria. Questa è una cosa che merita di essere segnalata, no? Valerio Rocchetti a Roma, Valeria Bernardi a Milano, la mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook, anche queste hanno nomi assonanti, redazione Jefferson 2, jefferson2@radio24.express yourself, rispettivamente, per parlare con noi o per dibattere tutti insieme nello spazio di Facebook. La replica è come sempre a mezzanotte, il podcast è disponibile sul sito della radio, la diretta domani alle 4, attorno alle 4 qui su Radio 24.